deciso di andare alla casa di riposo perché era con me, abbiamo preso la decisione definitiva e basta, e quindi ci siamo accordati, vuol dire si fa quel che si può, però finalmente sono tranquillo che ho la casa molto più grande, eccetera, l'altra pazienza. La vita è così, ma a vedere i giornali tutti i giorni, ci sono poco fotografie che c'è di molti, ma carità, la vita è così alle volte qua, tornando al discorso di tua suocera, mi dispiace che molta tua suocera, però ecco che devo prendere, purtroppo la natura è quella. Con una moto pesante di quelle 1.300 cilindrate, ti puoi immaginare, di quelle moto cioè se io sto una settimana senza lavorare, dopo che non rientro, sono troppo miserico a te. Cioè, mi vedi a tutte le parti, a me ne torrente. No, non mi vedo più a me, capito? Perché mi fa quello che mi fa quegli effetti lì. Magari ma da pure in domani dopo un po' magari devo uscire. Stacca, aspetta un attimo, ci sento un break. Avanti. Mi ha rotto che ti sento. Ce la siamo 3,5, dai. Ciao che ti sento. E tu mi senti. Perché stiamo uscendo con 3 fatti. Ho pagato. Ehi, ehi, e beh, non qui. Le scarpe stanno. E beh, ma può fuggire. Ma gli orari posso rimbrunire. Ho capito chi sono, quelli che si mettono quasi di fronte alla cabina dove abiti tu. Subito dopo dove c'è il coso, la vedetta che sta lì. Non so se ci sia o se c'è solo il coso, l'abitazione della vedetta. Ma ci mettono sempre dopo quella impalcatura lì. Bisogna che anche io lì, perché io ho provato dall'altra parte, c'è roccia, però ho pescato un bel sacco.